doop ba ba doop di ba do ba dai. Squippa dulli balli bulli billi bulli bai. Squippa doop ba doop di bi bai. Scoobidi ba ba di boobidi ba ba di boobidi ba ba di boobidi ba ba di billi bulli bialli bulli billi bulli bulli bulli. Scoobidi doop ba doop doop doop bai. Thank you. Thank you. Thank you.